Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, un mondo fatto di numeri e di elenchi. È l'ossessione di Alessio Medrano, protagonista del romanzo di Chiara Valerio, Almanacco del giorno prima. A Milano, terza edizione di Book City. Centinaia di incontri con gli scrittori dal 13 al 16 novembre. Oggi siamo in compagnia di Chiara Valerio, ora in libreria con Almanacco del giorno prima, pubblicato da Einaudi. È un libro molto originale, un libro bello, intenso, originale proprio a partire dalla struttura. È diviso in quattro parti, come se si raccontassero, anzi si raccontano, dei tempi diversi. Allora, forse non vi sto facendo capire niente, quindi adesso andiamo per ordine. Chiara Valerio, perché hai scelto questa struttura particolare, se ce la vuoi un po' spiegare, insomma, far capire ai nostri ascoltatori come hai organizzato questo romanzo? Come ho organizzato questo romanzo? In realtà quello che ha detto Alessandra Tedesco è, insomma, mi convince, anzi lo utilizzerò, perché è una differente scansione del tempo. L'ho scandita in quattro capitoli perché in ognuno di questi quattro capitoli il tempo scorre differentemente, però è un tempo tutto interiore, perché in realtà il romanzo si intitola Almanacco del giorno prima perché dura 24 ore e sono le 24 ore nelle quali il protagonista Alessio Medrano deve spostarsi da Roma a Milano per vendere il fondo assicurativo molto peculiare che ha inventato, e anche questo fondo ha a che fare con il tempo. Ha a che fare con il tempo perché Alessio Medrano fa un lavoro particolare. Lui acquista polizze assicurative sulla vita che persone non si possono più permettere di pagare, in sostanza. Come ti è venuta proprio l'idea di inventare questo mestiere che risulta insolito, poi magari esiste sul serio? Infatti la cosa bellissima è che il mestiere esiste sul serio, perché il libro mi è venuto in mente quando nel 2007 ho sentito per radio la storia dei riassicuratori, cioè delle persone che acquisiscono assicurazioni sulla vita di persone che non possono, non vogliono più pagarsela, e di queste assicurazioni fanno un fondo, per poi, insomma, un fondo di investimenti. C'è gente che investe sulla produttività da latte delle mucche del Wisconsin, e gente che investe sul tempo vita, sul tempo che rimane ad altri esseri umani. Questo mi sembrava un'idea di per sé letteraria, e dal 2012 è una cosa che è possibile fare anche in Italia, cioè si può investire su fondi al cui interno ci sono assicurazioni sulla vita di persone che l'hanno venduta. Ecco, spero che tu non abbia sentito questa notizia a Radio 24, perché altrimenti vuol dire che io non ero attenta quando l'abbiamo raccontata. No, era una radio, ma non credo fosse Radio 24. Era una trasmissione di mattina molto presto, poi stavo andando verso Benevento, poteva anche essere Radio Sannio, io questo non lo so, però sì. Vabbè, il mio posto di lavoro è salvo, insomma, almeno fino a questo momento. In questo romanzo c'è anche molta matematica, non è un caso, tu sei laureata in matematica, poi ti sei data alla scrittura, a volte non si capisce perché, ma forse c'è un elemento comune fra la matematica e la scrittura, la matematica e la lingua. Insomma, c'è molta matematica in questo romanzo. Tra l'altro tu dici che la matematica non è una scienza. E cos'è? È un linguaggio, appunto. Io penso, le scienze sono fatte di esperimenti, di controprove. La matematica è il linguaggio in cui questa scienza e queste controprove e queste ricerche sono scritte. Quindi in realtà è una facoltà di grammatica, perché è una facoltà dove si studiano solamente le parole e le frasi per strutturare una lingua. Semplicemente questo. Mi ha sempre fatto questa impressione, da un certo punto in poi. All'inizio, quando mi sono iscritta all'università, pensavo che fosse, appunto, come si dice, una facoltà scientifica. In realtà è una facoltà scientifica, ma di scienza sulla grammatica, quindi uno studia una lingua fatta di simboli. Allora, apriamo una parentesi personale, insomma, io ero una che non andava molto bene in matematica. Perché così tante persone odiano la matematica? Sono gli insegnanti che non la fanno capire, non ci danno il là per comprenderla, o effettivamente è una scienza o un linguaggio, mettiamola così, ostico? Io penso una cosa, che in qualche maniera il fatto che la matematica non sia insegnata bene quanto potrebbe essere insegnata, cosa che potrebbe essere detto un fatto, anche per la mia esperienza quando ho insegnato alle scuole superiori, in effetti avevo l'idea di qualche difetto di insegnamento nella matematica, però penso che questa sia appunto un effetto di secondo ordine. Penso che la gente ha paura della matematica perché invece la gente ha paura della morte, perché la matematica è un principio ordinatore, e i principi ordinatori sono sintomi di morte. Quando tutto va bene nessuno si mette a separare le cose, quando le cose vanno male invece uno elenca, ed elencando separa, e separando fa delle classifiche, oppure fa delle schede o degli elenchi, e l'elenco è mortifero. Il principio dell'elenco, che è un principio ordinatore, è un principio matematico. È mortifero perché prevede un inizio e una fine, o per cosa? semplicemente perché ci sono delle cose che non possono essere negate, ma non possono essere nemmeno nominate. Invece Alessio Medrano con il suo lavoro, e anche Alessio Medrano con la sua matematica, non fa altro che ordinare. L'esempio che faccio nel libro per chiarire questa cosa, come me la sono chiarita a me, è che quando qualcuno muore si fa la lista delle cose che sono rimaste. Quando qualcuno deve uscire di casa, e quindi da questo punto di vista l'elenco è un sintomo di morte, una mancanza, se quella persona c'era quell'elenco non l'avresti mai fatto. D'altra parte l'elenco può essere anche un principio di vita, perché per esempio sulla lista della spesa c'è già quello che in casa non ci sta, e quindi da questo punto di vista l'elenco c'è un'ambivalenza, ma l'idea, penso che in parla pure della matematica, il mancato insegnamento della matematica sia dovuto al fatto che i numeri, essendo principi ordinatori, sono principi appunto un po' mortiferi quantomeno. Il protagonista, dicevamo prima, ha molto a che fare coi numeri, un appassionato di numeri fin da ragazzino, insomma, fin da piccolo. A un certo punto, per esempio, tu scrivi: aveva dimostrato a tutti, si riferisce ai suoi compagni, che i numeri dispari erano più amati e che i numeri primi, minori di 10, tranne il 2 che era primo ma pari, erano amatissimi. E dopo quella cosa nessuno aveva voluto più giocare con lui, nemmeno a battaglia navale. Ora in fondo un po' capisco i compagni di Alessio Medrano, perché insomma un ragazzino che ti fa tutto questo discorso un po' ti inquieta, però al di là della battuta, qual è la personalità di Alessio Medrano? Perché si vede che è molto staccato dalle altre persone, come chiuso in un suo mondo, fatto di numeri ma anche di altre cose. Diciamo che per Alessio Medrano, che è un genio, Alessio Medrano è un genio matematico, come tutti i geni matematici del Novecento, Alessio Medrano conosce ogni numero come se fosse un suo parente, quindi tutti i numeri, queste cose che potrebbero essere dette di relazioni tra persone, questa frase che hai letto prima, in realtà è sintomo del fatto che Alessio Medrano ha rapporti sentimentali con i numeri che studia, semplicemente questo, lui li ama e ne è riamato, quindi vive in questo mondo d'amore corrisposto, che però non è fatto di Alessio Medrano e altre persone, ma di una persona e tanti numeri. A un certo punto però della sua vita incontra l'amore, si innamora di questa Elena, e qua cambia il registro del tuo romanzo, perché nel corso di queste 24 ore in cui ricostruisci appunto la vita di Alessio Medrano, vai a ritroso, ci sono dei flashback, si racconta anche la storia di questa relazione fra Alessio e Elena, e qui cambia completamente. Perché? Perché la racconti per piccoli frammenti, come se fossero dei bigliettini così lasciati in giro, frammenti di dialogo, di pensieri, e ricostruisci la loro vita. Perché hai usato anche qui questa struttura insolita? Perché l'idea era descrivere il rapporto di Alessio Medrano ed Elena Invitti attraverso la quotidianità dei loro gesti. Quindi la quotidianità insomma dei gesti tra Alessio ed Elena è data semplicemente dal loro fare le cose insieme. Quindi loro fanno le cose, il tempo va avanti, e va avanti in maniera singhiozzante. Il presente non è un continuum, il presente è una successione istantanea, e questo insomma volevo semplicemente cercare di riportare su carta il fatto che il presente non ha ragionamenti, ha appunto una successione istantanee. A un certo punto tu scrivi nel romanzo che dici: l'ennesimo elencare dei suoi 35 anni, credo fosse, ricordo a memoria, in questo ennesimo insomma c'è una sorta di ossessione che tu riconosci in Alessio Medrano? Alessio Medrano non fa solo elenchi, Alessio Medrano elenca ogni cosa, da quando è piccolo Alessio Medrano mette in fila le cose. A un certo punto, quando il suo interesse si sposta dalle cose agli esseri umani, ben prima di Elena, non trova più il modo per elencare gli esseri umani, gli esseri umani sono troppo complessi per essere messi in fila. E allora che cosa fa? Trova queste tabelle assicurative dove ha un valore, ha una perdita di un arto, è attribuita a una certa percentuale, a un certo valore insomma di invalidità, una certa percentuale di invalidità, e capisce che le assicurazioni possono essere il grande modo per elencare tutto il mondo. Quindi lui continua a elencare. Alessio Medrano ha un'ossessione. Quando tu prima dicevi l'elencazione, il romanzo si apre con nell'ennesima elencazione dei suoi 35 anni, perché il giorno del suo compleanno Alessio Medrano comincia a fare questa, a elencare quali sono le sue anime morte che ha comprato, qual è il bilancio del suo rapporto con Elena Invitti, gli riracconta a lui come se raccontasse a lei la sua vita precedente, perché lei ci sia sempre, dopodiché va a vendere questo fondo. Non è un riferimento casuale quello alle anime morte? No, non è un riferimento casuale, è un romanzo a cui ho pensato esattamente quando per quella famosa radio, che sicuramente non è Radio 24, avevo sentito la notizia dei life settlement, mi era venuto insomma una specie di botta quasi di calore, una gioia assoluta, perché ho pensato che la scienza si affanna a fare modelli, diciamo, di futuro, e certe volte ci riesce, certe volte no, ma i modelli di futuro affidabili sono quelli descritti nella letteratura, e Gogol nell'Anime Morte aveva descritto assolutamente questo personaggio, che Cicicov, che va nel governatorato di Enne per comprare i nomi dei contadini che sono morti ma che risultano vivi al catasto, che poi quando a un certo punto Alessio Medrano dice negli elenchi i morti avevano ancora un nome e quindi sono. Quindi dal nominalismo di Cicicov al nominalismo di Medrano, a questo tentativo mefistofelico di far rivivere le persone semplicemente dicendole, io mi sono rimessa a scrivere questo libro con una motivazione: volevo in qualche modo salvare Cicicov da lettore, perché Cicicov viene beccato perché la marchesa di Enne, il governatorato di Enne, dice che ha ricevuto pochi soldi per le sue anime morte, e allora va al governatorato e dice: ragazzi, mi ha pagato Cicicov, mi ha pagato poco, e loro gli dicono: per che cosa? E dicono: per le anime morte. E ma non si vendono le anime, e quindi beccano Cicicov. Quindi Cicicov viene, che è un grande eroe del nominalismo, viene battuto perché paga poco. Io volevo che Alessio Medrano, che cerca di fare la stessa cosa un momento prima, quando questi stanno per morire, a un certo punto lui dirà: stiamo tutti per morire, Elena, quando questi però stanno più per morire di altri, paga abbastanza perché nessuno mai possa lamentarsi, e quindi sulla carta Alessio Medrano è invincibile. Anche perché la morte è l'unica cosa certa, insomma, quindi è l'unica cosa su cui può scommettere sapendo di vincere. Esatto, lui può scommettere sapendo di vincere, lui in realtà scommette sull'esattezza del tempo morte, però è vero, dice esattamente questa cosa che ha detto lei, dice: ci sono solo due cose certe, la madre e la morte, sulla madre degli altri nessuno direbbe nulla, però sulla morte degli altri, visto che se ne parliamo non è la nostra, tutti possiamo dire tutto. Quindi lui è questo, è una specie di scanzonato, diciamo, portatore di morte. In genere si dice che le persone tendono a dare un nome alle cose, hanno bisogno di dare un nome alle cose per una forma di insicurezza, cioè per avere sicurezza nel mondo, per riuscire a capire, dare senso al mondo. Medrano sostituisce i numeri ai nomi o è un altro meccanismo? È molto bella questa domanda, non lo so, non le so rispondere adesso, non so se Medrano sostituisce i numeri e i nomi, può darsi che lo faccia. Penso che Medrano ritenga i numeri e etichette più affidabili per dare i nomi alle cose, quindi Alessio Medrano pensa di controllare più facilmente, ma ci sto pensando adesso che me lo ha chiesto lei, pensa di dare più facilmente i nomi alle cose facendo delle etichette numeriche, perché quelle etichette possono essere sommate, risommate, sottratte, moltiplicate. Da questo punto di vista, diciamo, lui può giocare di più. Però in realtà in quel pezzetto dice: le persone hanno paura dei numeri perché i numeri sono un principio ordinatore e sono un principio di morte, in realtà a un certo punto Medrano dice ed è proprio per questo che le persone, oltre ad aver paura dei numeri, hanno paura anche dei nomi. Le persone hanno paura anche dei nomi. E quindi sì, in realtà forse nella testa di Alessio Medrano nomi e numeri, lettere di linguaggio parlato e simboli non sono troppo distanti. Grazie a Chiara Valerio, ora in libreria con Almanacco del giorno prima, pubblicato da Einaudi. Tempo di festival letterari, di manifestazioni culturali, non solo in estate per fortuna, ma anche in autunno. Novembre è il mese identificato probabilmente con Book City Milano, che si svolgerà infatti dal 13 al 16 novembre. È una manifestazione relativamente giovane, questo è il terzo anno, era iniziata un po' come una sperimentazione, anche perché Milano, che è, come dire, la capitale dell'editoria, dove ci sono la maggior parte delle case editrici, non aveva un vero e proprio festival letterario di rilievo. E ne parliamo con uno dei curatori del programma, Oliviero Ponte di Pino. Allora, Ponte di Pino, innanzitutto spieghiamo poi ai nostri ascoltatori, che magari non conoscono ancora Book City, visto che è giovane come iniziativa, qual è la filosofia che c'è dietro Book City e che cosa eventualmente, in che cosa si distingue da altri festival e manifestazioni letterarie e culturali? Il punto di partenza è proprio quello che ha citato lei, cioè il fatto che Milano sia la capitale dell'editoria, con una grande quantità di case editrici, di attività legate all'editoria, di mestieri e di figure professionali legate all'editoria, con un sistema bibliotecario che funziona. Quindi l'idea è stata quella di dare voce ed espressione a tutta la creatività, a tutta la progettualità che il sistema editoriale milanese produce. Quello che facciamo noi è sostanzialmente di raccogliere le proposte che ci arrivano dagli editori, ma non solo, arrivano anche dalle biblioteche, dalle associazioni culturali, dalle fondazioni, da gruppi di cittadini, e in qualche misura di impacchettarle, di trovare uno spazio, una sistemazione a queste iniziative e di comunicarle alla città. Siamo partiti il primo anno molto in fretta e erano, in un mese abbiamo raccolto 350 eventi, quest'anno 2014, terza edizione, siamo arrivati quasi a 1000 eventi. Infatti devo dire che il calendario è assolutamente ricchissimo, non lo possiamo, come dire, illustrare tutto, quindi per questo rimandiamo al sito internet bookcitymilano.it. Però anche qui cerchiamo un po' di spiegare, chi volesse venire a Milano, a Book City, che cosa si trova davanti? C'è un tema, ci sono diversi incontri, cioè qual è appunto la filosofia dietro l'organizzazione degli incontri di Book City? Siccome noi raccogliamo le proposte che ci arrivano da tutto il mondo, diciamo così, editoriale, culturale milanese, abbiamo scelto di non prendere un tema chiave, ma di organizzare il materiale per temi e per materie. Tutto quanto può finire in un bel libro, questo è uno dei grandi motti della cultura e dell'editoria, quindi abbiamo incontri che parlano di tantissimi argomenti e chiunque può trovare qualcosa che gli interessi. Quindi sul sito ci sono i 900 e qualche eventi di Book City, organizzati per luoghi, organizzati per data, organizzati per temi. Se vi interessano i cani, ci sono degli incontri sui cani, se vi interessano i profumi, ci sono gli incontri sui profumi, se vi piace la bicicletta, ci sono gli incontri sulla bicicletta, e ovviamente ci sono i grandi nomi della letteratura italiana e straniera, e ci sono tanti eventi anche divertenti, spettacolari, coinvolgenti. E allora facciamo qualche nome, insomma, è impossibile farli tutti, lo sappiamo, abbiamo rimandato al sito, però qualche nome di punta? Beh, partiamo con David Grossman, che viene a ritirare il sigillo della città di Milano, e chiudiamo con il premio Nobel Dario Fo. In mezzo c'è di tutto, di più. Arrivano Claudio Magris, Svetan Todorov, arrivano tantissimi romanzieri italiani, tantissimi autori di noir di successo. Faremo una maratona noir domenica 16 al Castello, ma ci sono anche De Giovanni, Costantini, Malvaldi. Ci sono i vincitori di premi letterari come Walter Siti e Giorgio Falco, ci sono incontri dedicati alla lotta alla mafia, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tanti incontri a Milano. L'altra cosa affascinante è che invadiamo l'intera città e anche diciamo la città metropolitana, arriviamo fino a Legnano, Melegnano, con una serie di incontri, e facciamo scoprire ai milanesi sia dei pezzi della loro città raccontata attraverso i libri, cioè dei luoghi che magari non conoscevano, non frequentavano. Quest'anno tantissimi incontri sono organizzati al Circolo Filologico, che è appena dietro Piazza Scala, o alla Cavallerizza, che è la sede del FAI a Milano, alle Terme addirittura, che è una delle nuove sedi di quest'anno. Quindi cerchiamo di invadere tutta la città e di farla scoprire e di farla raccontare. A proposito di luoghi, insomma, nelle due scorse edizioni ho raccolto dei pareri proprio, insomma, dei lettori, di chi veniva a seguire gli incontri, e qualcuno però si lamentava del fatto appunto che se voleva seguire un incontro al Castello Sforzesco poi non avrebbe potuto seguire l'altro che era dall'altra parte della città. Adesso sto semplificando naturalmente. Come risponde a queste così critiche che sono state avanzate da alcuni lettori? Ovviamente ci sono 1000 eventi in 4 giorni ed è matematicamente impossibile seguirli tutti, bisogna scegliere. La cosa curiosa è che poi il pubblico in realtà riesce a scegliere e riesce a trovare l'evento che gli interessa e il luogo dove si svolge questo evento. Questo ovviamente dipende dalla tipologia della manifestazione. L'altra idea che abbiamo noi è che bisogna invadere tutta la città e che uno non può passare a Milano, scendere o scendere da casa sua, arrivare in strada, senza accorgersi che lì vicino c'è un evento di Book City. Credo che il successo della manifestazione dipenda anche da questa specie di bulimia culturale. L'unica cosa che posso dire è, per 3 giorni, prendete 3 giorni di ferie, staccatevi da tutto e troverete tantissime proposte interessanti. Sì, devo dire che è bellissimo vedere Milano anche in un mese come quello di novembre, magari un po' piovoso, nuvoloso, veramente ricco di incontri di persone che circolano per strade e che hanno voglia di andare ad ascoltare gli scrittori preferiti. Grazie allora ad Oliviero Pontedipino, uno dei curatori di Book City, quindi l'appuntamento è con Book City a Milano dal 13 al 16 novembre. E prima di chiudere vi voglio fare una segnalazione di un libro che uscirà praticamente nei prossimi giorni, il 13 novembre. È un libro molto atteso da bambini e ragazzi perché è Il diario di una schiappa e si tratta dell'ottavo volume, Sfortuna nera, pubblicato in Italia da Il Castoro. È scritto da Jeff Kinney, è come dire una saga per bambini e ragazzi veramente di grande, grande successo. Credo che nel mondo ha venduto più di 150 milioni di copie, una cosa incredibile, 2 milioni di copie solo in Italia. Insomma, questo è un appuntamento fisso per bambini e ragazzi, diciamo a partire dagli 8-9 anni fino alle scuole medie. Il protagonista è come sempre Greg, che fa il suo diario e insomma gliene succedono un po' di cotte e di crude. In questo caso vi posso dire, come ripeto spesso anche nel programma di Marta Cagnola il sabato del villaggio quando parliamo di libri, che lo inserirei nella categoria testato per voi, perché lo faccio leggere ai miei nipotini che hanno 8 anni e devo dire impazziscono per la schiappa, ormai aspettano l'arrivo del volume successivo con una certa ansia ed è bello vedere i ragazzini insomma che si fermano a leggere la sera magari di nascosto con la lucetta sotto le lenzuola perché vogliono vedere come va a finire la schiappa. Per questa puntata del Cacciatore di Libri è veramente, veramente tutto. Grazie in regia a Fabio Cantadori. Vi ricordo che trovate naturalmente queste e le altre puntate in podcast, radio24.it. Mi trovate su Twitter come Ale Teddina e su Facebook come Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.